Vendo tutto di Matteo Caccia. Ci sono cose che vendi di cui ti dimentichi appena le date via. Ce ne sono altre invece che, anche se non le usi più o non le vedi lì in casa tutti i giorni, ti rimangono attaccate addosso come un cattivo odore. Queste sono le cose che voglio vendere più in fretta. Ecco perché non mi fermo e continuo. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Lo so, capita. Succede a tutti ed è toccato pure a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un completo da uomo. Un paio di giorni fa, girando su internet, in particolar modo su YouTube, ho visto una cosa particolare. Era un discorso tenuto alla fine di una laurea universitaria in un'università americana. Ha a che fare con la vita, con i sogni e con i desideri. Visto che io quotidianamente vi racconto dei miei desideri, vi spiego perché sto vendendo tutto ed è per realizzare i desideri, mi sembrava giusto farvelo sentire. Your time is limited. Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Don't be trapped by dogma. Non fatevi intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. E cosa più importante di tutte, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario. Quando ero un ragazzo c'era un'incredibile rivista, si chiamava Il Catalogo dell'Intera Terra, praticamente una delle Bibbie della mia generazione. È stata una sorta di Google in formato cartaceo, 35 anni prima che ci fosse Google. Era idealistica e sconvolgente, traboccante di concetti chiari e nozioni fantastiche. Nell'ultima pagina del numero finale c'era una fotografia. Era la fotografia di una strada di campagna di prima mattina. E sotto la foto c'erano le parole: stay hungry, stay foolish. Siate affamati, siate folli. Era il loro messaggio di addio. Siate affamati, siate folli. Io me lo sono sempre augurato per me stesso. E adesso che vi laureate per cominciare una nuova vita, lo auguro a voi. Stay hungry, stay foolish. Questo signore che avete sentito è Steve Jobs, cioè quel fondatore della Apple, il creatore del Macintosh, il fondatore della Pixar, insomma uno che ne ha fatte di cose nella vita. Ha tenuto questo discorso nel 2005 alla Stanford University. Credo che ogni anno vengano invitate delle personalità a tenere dei discorsi di incoraggiamento nei confronti dei neolaureati. E lui fece questo discorso. Il discorso è molto più lungo, dura 15 minuti, lo trovate, l'ho linkato sul nostro profilo Facebook, quindi lo trovate lì, è sempre lo stesso, Matteo Caccia vendo tutto. C'è l'intero discorso. Questa era solo la parte finale. Questa raccomandazione, quello di rimanere affamati, di rimanere folli, mi sembrava bella, soprattutto perché ha a che fare appunto con quello che vogliamo fare e che vogliamo ancora fare o che pensavamo di poter fare, insomma i desideri di quando eravamo bambini, che sono un po' le cose che vi racconto tutti i giorni, che vorrei fare, e un po' sono le cose che sono nascoste dentro di noi. Oggi però vorrei provare a tirarle fuori, quelle cose lì, non solo per me ma anche per voi. 800240024, se avete voglia di raccontarmi quali sono i desideri di quando eravate bambini e che magari avete realizzato, magari no, però se avete 30 secondi, vi fermate un attimo e provate a pensarci se quello che state facendo è esattamente quello che volevate o è solo una parte. 80024 0024 oppure 349-238-6666. Perché poi ieri, dopo che ho visto questo video di Steve Jobs, mi è arrivato un messaggio sempre su Facebook di Gabriella, che è un'ascoltatrice. Gabriella mi raccontava a proposito della lista dei desideri, dice: la tua lista mi ha fatto venire in mente una lista che avevo stilato con i miei due bambini. Sono Alessandro e Matteo. Alessandro ha 9 anni, credo, e Matteo, no, Alessandro ne ha 7 e Matteo ne ha 10. 2 anni fa, mi scrive, eravamo in Arabia, credo probabilmente per lavoro, e ci siamo messi lì e abbiamo stilato queste due liste. Sono due liste brevi, ma sono molto interessanti perché sono le liste di due bambini. Andiamo con la prima, è la lista di Alessandro. Diventare papà, diventare scienziato, andare sulla luna, ma forse solo costruire un razzo, ancora non lo so. Vivere in Australia. Questa era Alessandro di 7 anni, mentre l'altro figlio di Gabriella è Matteo, a 10 anni, e ha questa lista qui. Fare l'archeologo, andare sulla luna, poi depennato lo scorso anno, diventare judoka, sostituito dal rugbista, vivere in Australia con la famiglia e in Egitto per lavoro, e ultimo, avere dei figli. 80024 0024 oppure 349-238-6666, secondo me ce la fate. Vi mettete lì 30 secondi e cercate di ricordarvi quali erano le cose che volevate fare quando eravate bambini. È anche un po' un modo per capire a che punto siamo arrivati. Prima ne parlavamo con Laura Faggine, e Laura ha sempre tutto chiarissimo in testa. risposta è appena l'ha detto: tu cosa volevi fare da bambina? E lei mi ha detto: volevo fare la veterinaria. La veterinaria, giusto, non la vetrinista. La veterinaria e l'archeologa. Direi che ci siamo pienamente. 800240024 per i vostri desideri di quando eravate bambini. Adesso però andiamo avanti con il programma, perché la puntata di oggi ha a che fare con i desideri delle persone di cui vi racconto, anche se c'entra solo il mio completo da uomo. Se volete vederlo, radio24.it, per sentire la sua storia, eccola qui. Il completo da uomo. Completo da uomo marca Romeo Gigli, composto da pantaloni, gilet e giacca monopetto, tre bottoni con doppio spacco laterale. Materiale lana, colore blu a scacchi, taglia 50. Valore commerciale 1200 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ci sono delle coppie che trovo veramente malassortite. Anche se mi sono ripromesso di non dare più giudizi sulle scelte sentimentali di amici e conoscenti, quando ho saputo che Claudia si sposava con Ludovico, ho avuto un tracollo. Claudia è un'amica d'infanzia, quelle persone insieme a cui cresci senza quasi accorgertene, perché non è che le cerchi, non hai bisogno di fare sforzi per trovarle, perché sono sempre lì. Da quando in estate i miei genitori mi hanno permesso di uscire la sera, Claudia è sempre stata nel gruppo di amici. Non che ci abbia mai fatto delle vacanze o dei viaggi insieme, no, però la sua presenza è sempre stata certa per me. Un giorno di un paio di anni fa mi ha chiamato al cellulare. Quando ho visto il suo numero sul display ho temuto che fosse successo qualcosa. Perché ecco, un'altra caratteristica di queste amicizie è che non ti senti al telefono, perché non ce n'è bisogno, non serve. Quando io torno a Romentino so che lei è lì. Basta suonare il citofono e se lei non c'è, male che vada, faccio un saluto ai suoi genitori. Quando mi ha chiamato invece ho capito che c'era in ballo qualcosa di grosso, e quel qualcosa di grosso era che si sposava. Uno. Due. Che voleva me come testimone. Io ovviamente ho fatto finta di essere felice, ho tirato fuori le cose che si tirano fuori in questi casi, che è il momento giusto, che fare una famiglia oggi è la cosa più rivoluzionaria che ci sia, e tutte quelle manfrine che torna comodo dire. Perché Claudia è una ragazza tosta. Praticamente non ha studiato, ha sempre solo lavorato, ma non in quel modo autoforzato da laboriosa provincia italiana. Lei si è sempre stufata in fretta di tutto, ha mollato posti sicuri perché non le piacevano le persone con cui stava o perché voleva partire per stare via qualche mese. Tutto il contrario di Ludovico, che è sicuramente un bravo ragazzo, ma privo di nervo. Ludovico lavora nella tabaccheria dei genitori da quando ha 14 anni. Sa a memoria tutti i valori delle marche da bollo, tutti i prezzi delle sigarette. Le signore del paese lo adorano perché le chiama tutte per nome e ogni tanto si prende pure un caffè con loro in piazza. Loro due sono fidanzati da quando hanno 16 anni e io non ho mai capito come fosse possibile. Lei diceva che un suo desiderio di bambina era proprio di sposarsi con Ludovico. Io ho sempre provato un certo imbarazzo nel parlarne con lei. L'unica volta che lo abbiamo fatto è stata in maniera impersonale, non a proposito di loro due, ma delle coppie malassortite. In quell'occasione lei disse una cosa che alla fine di tutto trovo inappuntabile. Quando scegliamo la persona che ci sta accanto, le ragioni sono talmente intime che nemmeno noi, alla fine, sappiamo veramente spiegare il perché. Don't let yourself go. L'abito che vendo oggi l'ho comprato apposta per il matrimonio di Claudia. Sono andato in un negozio di Milano che avevo sempre guardato da fuori, senza mai avere il coraggio di entrare. È un abito tradizionale, giacca, pantaloni e panciotto. Però ha degli scacchetti che da lontano sembrano tinta unita, ma che da vicino sono abbastanza evidenti. E il solito abito tutto grigio e tutto blu mi sembrava troppo noioso. Forse per questo però, quando sono arrivato in chiesa, il prete mi ha guardato di traverso. Ludovico era già lì, con la sua bella faccia da pirla e il suo sorriso ebete. L'ho salutato e poi ci siamo messi ad aspettare la sposa rivolti verso la porta. Quando la macchina si è fermata sul sagrato e lei è scesa insieme a suo padre, sembrava due volte più alta di lui, ma soprattutto era raggiante e bella come non era mai stata. Era il suo matrimonio, lei era la protagonista e aveva intenzione che tutti lo notassero. Poi è arrivata, si sono baciati ed è cominciata la cerimonia. Il prete ha attaccato il sermone. Sembrava un imbonitore, un presentatore di quelle piccole televisioni locali. Agitava le mani, faceva riferimenti ai personaggi dello spettacolo, ogni due minuti chiedeva l'applauso degli invitati. E loro ovviamente non si facevano pregare. A un certo punto ha iniziato a citare il Vangelo, dicendo «Beato il marito di una donna virtuosa», guardando Claudia con aria di rimprovero. E poi si è messo a dare pareri sulla vita di coppia. Ecco, che questa è un'altra cosa che mi ha sempre stupito molto. Cioè, il fatto che i consigli a due persone che stanno per andare a vivere insieme per tutta la vita arrivino da una persona che ha scelto di rimanere da solo per tutta la vita. Voglio dire, se già un uomo comune conosce poco il mondo femminile, figuriamoci quanto ne può sapere un sacerdote che forse l'unica donna che frequenta è la Perpetua. Se ancora esiste, non lo so. Ecco, allora mi sembrerebbe più giusto che a celebrare un matrimonio ci fossero sempre un prete e una suora, in modo che lui dà consigli alla sposa su come comportarsi con il marito e lei li dà allo sposo su come comportarsi con la moglie. Vabbè. Comunque poi la cerimonia è finita e io effettivamente mi sentivo un po' fuori luogo con il mio abitino a scacchetti. Però la gente intorno non se ne curava, né di me né del mio abitino a scacchetti. Ci siamo concentrati tutti sugli sposi. E a quel punto è successa una cosa strana. Mentre eravamo fuori dalla chiesa, con il sole che batteva, il riso che volava, la gente che sorrideva, ho guardato Claudia che stringeva Ludovico. E nel mio abitino a scacchetti ho capito che al di là di tutte le promesse appena fatte, al di là delle aspettative o del mio scetticismo sul suo marito, alla fine l'amore è questa cosa qua, che anche se non sai bene dove vai, continui ad andare. Ed è giusto così. Ecco perché nonostante tutto, nonostante le copie mal assortite e le nozze, questo abito è in vendita. Il suo valore è di 1200 euro, la base d'asta qui, 99 centesimi. Per raccontarmi i desideri di quando eravate bambini, 16:21, questa è Radio 24, state ascoltando Vendo Tutto. Intanto al 349-238-6666 mi arrivano tutti i messaggi di quelli che avevano desideri quando erano piccoli e in parte si sono realizzati e in parte no. Nico mi scrive: volevo fare il pilota ed avere una famiglia felice. Oggi faccio l'autista e sono single. Posso dire di essere a metà del mio cammino? Secondo me sei sulla buona strada, Nico. E poi ancora Valentina da Vicenza: volevo fare la paleontologa. Ora faccio la prof di storia dell'arte e sono felicissima. Per fortuna. 800240024, sentiamo invece i desideri di bambino di Carlo da Torino. Pronto? Ciao. Ciao Carlo. Puoi abbassare un po' la radio, Carlo, per piacere, altrimenti ti sentiamo. Io volevo fare il raccattapalle da piccolo. Il raccattapalle? Ma dove? Allo stadio del calcio, del tennis, di cosa? No, del calcio, e ci sono riuscito quando poi ne avevo 12-13. Ma allo stadio? Allo stadio, sì. Allo stadio quello grosso, delle Alpi, al comunale di Torino. Assolutamente. Per il Torino o per la Juventus? Era una squadra satellite della Juve e ci chiamavano per fare la raccattapalle. Quindi scusami Carlo, però perdonami, i desideri, cioè tu giocavi al calcio e invece che diventare un calciatore volevi fare il raccattapalle? Beh, io avevo 6 anni, primo tema della scuola, cosa vuoi fare da grande, pazzo del calcio. E quindi raccattapalle, visto che guardavo gratis le partite, lavoravo 2 ore alla settimana. Carlo, e non facevo altro, ho già chiaro tutto in testa. Cosa fai adesso, Carlo? Il consulente. Adesso faccio il commerciale, odio il calcio e per contrappasso ho un figlio di 3 anni che al suo compleanno ha chiesto a tutti gli invitati solo figurine di calciatori. Olè! Carlo, ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao. Ciao, andiamo provincia di Milano da Andrea. Pronto, Andrea? Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene. In teoria dovresti dire e tu, così anch'io ti dico bene. Rifacciamo. Ciao Andrea, come stai? Bene, te come va? Bene, grazie. Hola. Quanti anni hai, Andrea? Io ho 34 anni e vivo a Milano, ma sono originario di Lecce. Cosa volevi fare da bambino? Da bambino mi ricordo che mio padre una volta aggiustò una ringhiera e io ho 4-5 anni e dissi: ma voglio fare la giusta ringhiera grande. Cioè il fabbro praticamente. No, in realtà solo la giusta ringhiera. Aggiustare ringhiere, cioè aggiustare cose rotte, ecco, o migliorare cose che vanno male. E cosa fai adesso, Andrea? E adesso faccio l'ingegnere e mi occupo di ristrutturazioni. Ma quindi sei, cioè, addirittura hai sorpassato a destra i tuoi sogni di bambino. Andrea, ti ringrazio molto e buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, a te. Andiamo a Pistoia da Giordano. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Giordano, come va? Io bene, tu? Oh, bravo che eri pronto. Benone, senti, cosa volevi fare da bambino e perché? Allora, io vedevo sempre tutti i sabati sera il telefilm con Tom Selleck e Magnum P.I. e sognavo di comprarmi quel meraviglioso Ferrari. Cioè, proprio il suo? No, vabbè. Che modello era? Che modello era? Era un 328 GTS. Che era quello... C'era il GTS con lo scapottato e il GTB quello con la capote. Lui era scapottato, no? Perché ci era saltava dentro. Era scapottato perché alle Hawaii non si può avere Ovvio, la capote certo, sopra. Certo. Meraviglioso. E l'hai comprato? No, per ora no, però non ho mai smesso di sperare che si possa arrivare un giorno a un risultato del genere. Non mi fermo davanti alle difficoltà. Ma anche perché, Giordano, così a naso, secondo me, quel modello lì oggi non è che proprio lo porti via con tutti sti soldi, eh? No, infatti, c'è una persona vicino a casa mia che ha un modello leggermente dopo di quello, qualche anno dopo. Sì? Effettivamente costa, non dico una bazzecola, perché non è che un Ferrari. Cioè quanto? Quanto costerà? 10.000 euro? No, sui 20.000 euro mi sembra. Ora non ricordo il modello, però mi sembra che costi sui 20-25. Che lavoro fai, euro. Giordano? Io faccio, diciamo, lavoro per un'azienda importante a livello mondiale che allora, è il settore del caffè. Benissimo, metti da parte sti tre soldi. Però, va bene, metti da parte sti tre soldi e la Ferrari di Magnum è tua. Grazie mille, Giordano. Ciao, buona giornata. Andiamo a Matera da Nino. Ciao. Ciao Nino, tutto a posto? Sì, sì, tu? Bravo. Siete prontissimi oggi. Senti, cosa volevi fare da piccolo? Io volevo fare l'astronomo. Ah. L'astronomo, sì. E cosa fai? E faccio il dipendente delle poste, allo sportello. Ok, però hai un cannocchiale, hai un... È una cosa che sogno di comprare da qualche mese, sto mettendo i soldi da parte. Oh, bravo, quanto costa un cannocchiale? No, ma poi non è il cannocchiale quello per guardare le stelle, un no? Un telescopio, bravo. Da tenere sul terrazzo. Visto che si parla di soldi, con quanto viene via un telescopio? Ma non lo so, tra 500 e 1000 euro. Ah, ok. Lavori alle poste dove, scusami? A Matera, Nino? Nella provincia. In provincia, sì, ogni giorno viaggio, faccio... Ma soprattutto ogni giorno c'hai davanti decine di persone che... un po' aggressive di solito. No. Anzi, si impara a gestirle. Nino, grazie mille e buona giornata. Possiamo prendere l'ultima al volo? Ci sta, al volo. Fabrizio da Pistoia, pronto? Pronto, ciao. Ciao Fabrizio, guarda, veramente Laura mi dice di stringere, quindi stringerò. Grazie, sì. Dimmi solo che cosa volevi fare da bambino. A 5 anni ho deciso che volevo fare il veterinario, perché mi piaceva tutti gli animali. E adesso fai? Il veterinario. Oh, grazie Fabrizio, buona giornata. Ciao, grazie. Sono le 16:27 minuti, io ringrazio tutti quelli che hanno chiamato e che non abbiamo potuto sentire. Ringrazio soprattutto Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. Il mio abito, il mio completo da uomo, Romeo Gigli, è sul sito radio24.it. Domani è il turno di un paio di cuffie semiprofessionali, un paio di AKG. Se volete risentirvi o rivedervi il discorso di Steve Jobs, andate sul profilo Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. E invece, se avete degli abiti che tenete negli armadi e non le indossate, liberatevi, che ormai lo sapete, anche un vestito è solo un vestito.